sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sento la responsabilità e la fiducia di tutti gli italiani. Faccio ciò che posso secondo la Costituzione. Ripresa solida in Europa, ma secondo il Fondo Monetario c'è il rischio contagio dalla crisi del debito. Per la Grecia non è necessaria la ristrutturazione del debito. Oltre 10.000 manifestanti in corteo a Cagliari per protestare contro le cartelle di pagamento Equitalia. 1.500 espositori, 1.300 eventi al Salone del Libro di Torino, che apre oggi i battenti nel segno dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. In primo piano, l'avete sentito nei titoli, le parole di Napolitano da Firenze. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Sento la fiducia di tutti gli italiani, così il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, risponde all'applauso dei fan durante la visita a Firenze, prima accolta alla stazione di Santa Maria Novella, standing ovation anche al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Non manca uno sguardo alla politica internazionale e alla situazione in Libia. Sentiamo Napolitano. L'Italia non ha dichiarato nessuna guerra. L'articolo 11 ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali, ma nello stesso tempo esalta la funzione delle organizzazioni internazionali che debbono garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, e la prima tra queste organizzazioni è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Poi Napolitano parla della politica italiana, faccio quello che posso, quello che devo fare secondo la Costituzione, sento la responsabilità della fiducia che mi viene tributata dagli italiani da ogni parte del paese e da tutte le condizioni sociali. Non bisogna mai dimenticare che noi apparteniamo a qualcosa di più grande della fazione di ciascuno di noi, l'Italia insomma per Napolitano viene prima di tutto. Bisogna poi rilanciare il ruolo del Parlamento, che non deve ridursi ad un esercizio povero e meschino delle sue facoltà. In Gran Bretagna per piccole cose i parlamentari si sono dovuti dimettere. Rimbrotti che non possono che non far venire in mente il conflitto con i toni accesi della campagna elettorale in corso e la rivendicazione del premier Silvio Berlusconi, che chiede più poteri a fronte di un Quirinale troppo potente, almeno secondo il premier. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Immigrazione e trattato di Schengen al centro dell'incontro oggi a Bruxelles fra i ministri degli interni europei. Andrea Viali. Sia a Bruxelles i ministri dell'interno sono ancora riuniti per fare il punto sulle misure da prendere per gestire il flusso di migranti dal Nord Africa. Prima di entrare alla riunione il ministro dell'interno italiano Maroni è tornato a criticare l'Europa, l'ha accusata di non essere tempestiva nell'attuare le decisioni prese e ha citato in particolare Maroni come esempio quello dell'ultima riunione dei ministri degli interni. Sentiamo cosa ha detto. Si decise che Frontex avrebbe dovuto iniziare immediatamente i negoziati con la Tunisia per fare il pattugliamento congiunto. È passato un mese e non è ancora successo nulla. Basterebbe che si desse attuazione concreta alle decisioni prese e purtroppo non succede come dovrebbe succedere, così con la tempestività che dovrebbe essere adottata in questi casi. Al centro della riunione di Bruxelles, lo ricordiamo, ci sono le proposte della Commissione europea in materia di immigrazione e fra queste anche la revisione del trattato di Schengen per consentire il ripristino dei controlli alle frontiere anche in caso di flussi migratori straordinari. Una modifica, questa lo ricordiamo, chiesta da Italia e Francia e da ultima anche dalla Danimarca. Per ora è tutto. Sarà una giornata lunga quella dei 27 ministri degli interni che si riuniscono all'indomani della decisione unilaterale danese di rafforzare i controlli alle frontiere con la Germania e la Svezia. Nessun abbandono dello spazio Schengen, assicura il ministro Frederiksen, spiegando la decisione assunta sulla base di un accordo con i partiti di estrema destra, ha spiegato che tutto sarà fatto nel rispetto delle regole. D'altra parte, al momento della firma della convenzione, la Danimarca aveva chiesto e ottenuto dai partner uno statuto speciale che le consente di scegliere nell'ambito dell'UE se applicare o meno ogni nuova misura annunciata nell'ambito dell'accordo che da oltre un quarto di secolo regola la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere. Il provvedimento deciso a Copenaghen dovrebbe entrare in vigore entro 3 settimane e riguarderà essenzialmente i controlli doganali e non i passaporti alla frontiera con la Germania e sul ponte dell'Øresund che collega la capitale danese alla città svedese Malmö. L'ipotesi di un rafforzamento dei controlli era stata avanzata dal Partito Popolare, formazione xenofoba di estrema destra, che offre al governo conservatore al potere dal 2001 un appoggio esterno. Il costo totale della misura, annunciata prima delle elezioni legislative d'autunno, si aggira sui 40 milioni di euro. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Abbiamo sentito in apertura le parole del capo dello Stato sulla Libia. Dovevamo fare la nostra parte, non potevamo sottrarci. Intanto il premier libico Ali al-Mahmoudi dice: stiamo consentendo ai barconi di migranti di partire alla volta dell'Europa per protestare contro i raid della NATO nel paese. Sentiamo. Alberto Arce è un giornalista spagnolo freelance. Si trova a Misurata da giorni e vive in una casa di una famiglia che è rimasta nella città. Lo abbiamo raggiunto in maniera rocambolesca perché il suo racconto ha un peso in una guerra dove tutto appare lontano. Sì, durante le ultime 24 ore, ci racconta Arce, i ribelli hanno messo in atto un'offensiva molto intensa nel sud della città, in quattro punti: l'aeroporto, l'Accademia del Volo, il mercato africano e la prigione di Misurata. Ho capito, continua Arce, che la città tornava in mano ai ribelli perché a un certo punto gli spari di battaglia si sono trasformati in spari di festeggiamento. Allora sono corso verso l'aeroporto e sono entrato con i ribelli. Ho potuto vedere i generali abbandonare la città e lasciare soli i militari che hanno provato a nascondersi nelle case e poi si sono arresi. Ora posso confermarvi che il 100% della città di Misurata è libero. Arce ci racconta anche che i ribelli sono persone normali, volontari, assolutamente disorganizzati e scoordinati, che fanno quello che riescono per liberare la città. Poi gli chiediamo allora di raccontarci come vive chi è rimasto a Misurata. Lo stanno passando molto male, a fin de cuentas, male, en la calle, risponde il giornalista spagnolo. Male, per strada vediamo solo combattenti. Donne e bambini sono chiusi in casa da quasi due mesi e poi manca tutto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le analisi questa mattina di BCE, Fondo Monetario, subito manovre correttive in area euro se necessario, fa sapere la Banca Centrale Europea. La ripresa resta solida in Europa, secondo il Fondo. Il Fondo Monetario Internazionale continua a respingere la possibilità di una ristrutturazione del debito greco. Parlando oggi a Francoforte, il responsabile per gli affari europei dell'FMI, Antonio Borges, ha spiegato che in questo momento non c'è la necessità di una rinegoziazione debitoria in Grecia. Ha precisato che il piano di risanamento dei conti, oggetto in questi giorni di una valutazione da parte degli uomini del fondo, rimane il punto di riferimento della politica economica nel paese mediterraneo in crisi finanziaria. Nella sua conferenza stampa, Borges ha messo però l'accento sulla necessità per l'Europa di mettere mano al sistema bancario, ancora fragile, anche per evitare un rischio contagio dai paesi periferici agli stati membri più solidi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. L'Italia è un paese di grandi risparmiatori e ciò, combinato con un basso livello di indebitamento, ha consentito al nostro paese di mantenere a distanza di sicurezza gli spettri del default sul debito sovrano. A parlare così Domenico Siniscalco, presidente di Assogestioni, durante un'audizione alla Commissione Finanze della Camera. L'inchiesta sulla scalata Parmalat-Lactalis. Anche le due banche Intesa San Paolo e Société Générale sono indagate. Ieri anche i loro uffici sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza nell'inchiesta del PM Eugenio Fusco, che è iscritto nel registro degli indagati, fra gli altri anche un manager di Intesa, Fabio Canè, per Insider Trading, e la moglie Patrizia Micucci di Société Générale per Aggiotaggio. E Callisto Tanzi resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato le istanze di scarcerazione per l'ex patron di Parmalat. Truffa derivati ai comuni di Messina e Taormina, sotto sequestro 17 milioni di euro alla BNL. È stata battezzata Over the Counter, l'operazione condotta dal GICO, dalla Guardia di Finanza di Messina, i cui uomini hanno eseguito un sequestro preventivo di 17 milioni di euro alla BNL per una presunta truffa ai comuni di Messina e Taormina con strumenti di finanza derivata. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale Peloritano Maria Vermiglio, che ha accolto la richiesta del procuratore Guido Loforte e del sostituto Vito Di Giorgio, arriva al termine di un'indagine avviata nel 2009 su contratti stipulati tra il 2002 e il 2007. Sono indagati per truffa aggravata, oltre alla stessa BNL come soggetto giuridico anche due dirigenti dell'istituto di credito, il responsabile della direzione generale di Roma del settore pubblica amministrazione Giuseppe Pignataro e il dirigente della divisione corporate Roberto Antolini e sei funzionari della filiale di Messina. Secondo gli inquirenti, gli enti pubblici hanno firmato i contratti convinti di ottenere benefici economici per le loro finanze, mentre invece operazioni che dovevano essere di copertura a rischio sono risultate vere e proprie speculazioni estranee alle finalità dell'ente. Per la Guardia di Finanza i contratti sono stati stipulati in violazione degli obblighi informativi verso la clientela. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Messina. È stato condannato a 5 anni di prigione dal Tribunale di Monaco di Baviera John Demjanjuk, 91 anni, l'ex guardia nazista accusata di concorso nell'eccidio di quasi 28.000 ebrei nel 1943. L'accusa aveva chiesto una pena di 6 anni e Demjanjuk, ribattezzato il boia di Sobibor in Polonia, rischiava fino a un massimo di 15 anni di carcere. Spagna, il giorno dopo, dovrebbe ormai essere definitivo il bilancio del terremoto che ha colpito ieri Lorca nel sud-est del paese. 8 morti, 160 feriti, 10.000 gli sfollati. Per la regione di Murcia non è una novità, è una zona a rischio racchiusa tra due fasce sismiche. Il terremoto aveva già colpito. Ieri due scosse, la più forte attorno alle 19, magnitudo 5.3. Un terremoto di 4.4 nella scala del Richter. La TV spagnola mostra le immagini del campanile della chiesa di San Diego che viene giù in diretta. E poi edifici crollati, macchine sepolte dalle macerie e tanta gente per le strade. La Protezione Civile aveva chiesto alla popolazione di tenersi lontana dai palazzi e così è stato per tutta la notte. 20.000 persone si sono arrangiate come meglio hanno potuto, tende e sacchi a pelo sull'erba dei parchi, nei cortili delle scuole, nelle piazze. Per alcuni è stata solo una precauzione, per altri una necessità, perché la propria casa non c'è più. In segno di rispetto sono state sospese per oggi tutte le attività di campagna elettorale per le amministrative regionali del 22 giugno. Decisione presa di comune accordo dal premier Zapatero e dal leader dell'opposizione Rajoy. Il primo ministro ha assicurato al più presto l'approvazione delle misure per la ricostruzione di Lorca. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riaperto l'aeroporto di Catania Fontana Rossa, che all'alba di questa mattina aveva dovuto sospendere l'attività a causa dell'intensificarsi dell'attività dell'Etna e la conseguente pioggia di cenere vulcanica. Nella prima parte di GR24 abbiamo sentito le parole di Napolitano: sento la responsabilità e la fiducia di tutti gli italiani, faccio ciò che posso secondo la Costituzione. Ripresa solida in Europa, ma secondo il Fondo Monetario c'è il rischio contagio dalla crisi del debito. Per la Grecia non è necessaria la ristrutturazione del debito. Condannato a 5 anni di carcere, Demjanjuk, il boia di Sobibor, 91 anni, sarebbe fra i responsabili della morte di 28.000 ebrei. E ripartiamo dalla protesta di oltre 10.000 persone a Cagliari contro le cartelle di pagamento Equitalia. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'eccessiva pressione fiscale sotto accusa, da qui la protesta e la manifestazione a Cagliari di circa 10.000 persone tra artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, tutti contro Equitalia, la società di riscossione. Il popolo delle cosiddette partite IVA ce l'ha con le cartelle esattoriali e chiede una moratoria per il pagamento dei debiti dovuti allo Stato, alle amministrazioni locali e agli enti previdenziali. Si rivendicano inoltre diverse modalità di riscossione ed oneri più adeguati. Sono scesi in piazza anche gli operai del Sulcis, una delle zone industriali più in crisi della Sardegna. Il corteo è sostato per qualche minuto davanti alla sede della società di riscossione, presidiata dalla polizia in tenuta antisommossa, e poi ha ripreso il percorso verso il Palazzo del Consiglio regionale, dove una delegazione è stata ricevuta dal presidente Ugo Cappellacci. Sul tema fisco è intervenuto intanto questa mattina il presidente del Consiglio Berlusconi, ha parlato di ginepraio di norme. Stiamo preparando per questo, ha annunciato il premier, un unico codice con tutte le leggi fiscali, con l'abrogazione di quelle di più difficile interpretazione. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. La proposta di legge del deputato PDL Garagnani sulla scuola: si introduca una legge che punisca con la sospensione gli insegnanti che fanno propaganda politica o ideologica in aula. Sentiamo Garagnani al microfono di Romolo Napolitano. Nell'approccio ad esempio alle discipline storiche e fatti dell'attualità quotidiana, perché riguarda anche insegnanti non di materie letterarie o storiche, il docente deve astenersi da commenti estremamente faziosi o violenti o partitici su personaggi, su Presidente del Consiglio, Presidente o esponenti dei partiti, a mio modo di vedere, come si è verificato e si sta da sempre nelle scuole emiliano-romagnole, con accenni, ma anche in altre parti d'Italia, espliciti a votare in occasione di elezioni politiche per questo o quel partito, per questo o quella persona, demonizzando l'avversario. Il compito della scuola è di educare, non di trasformare gli studenti in agitatori politici. Francesca Puglisi, responsabile scuola del PD. Garagnani fa continuamente queste campagne ossessive sugli insegnanti comunisti che fanno propaganda nelle scuole. Aveva istituito addirittura una linea telefonica chiedendo ai genitori di denunciare i casi di scorrettezze degli insegnanti nei confronti dei propri figli. Sono numeri telefonici che sono andati completamente deserti. Facciamo un'altra cosa invece, facciamo una legge di iniziativa popolare per sospendere quei almeno per 3 mesi e forse anche più quei parlamentari che offendono lavoratori per bene, che offendono le istituzioni con i loro comportamenti immorali. Ed ora Torino, dove è aperto oggi Battenti il Salone del Libro, sentiamo. 1500 espositori fra case editrici grandi e piccole, 1300 eventi, fra questi quello su cui si concentra l'attenzione è la mostra sui 150 anni dell'Unità d'Italia, cartelloni e oggetti sui 150 libri che meglio rappresentano il nostro paese, fra cui sono stati selezionati 15 superlibri, dal Gattopardo a Pinocchio a Gomorra. Gian Arturo Ferrari, direttore del Centro per il Libro e la Lettura e curatore della mostra. E noi abbiamo cercato di selezionare, scegliere i libri in base alla loro appunto diversità, per così dire, di provenienza, ma in base anche alla loro durata, al tempo in cui dureranno e hanno durato. Ci sono libri tra i nostri 150 libri o tra i 15 superlibri che hanno venduto milioni di copie, ma ci sono anche libri che invece ne hanno vendute pochissime di copie, che però secondo noi sono libri che hanno inciso, che hanno durato nella storia e nella coscienza degli italiani. I libri dal 1861 a oggi sono testimoni materiali della storia dell'Italia, l'ha detto il presidente del Senato Renato Schifani nel messaggio inviato al Salone, e nello stesso messaggio ha dichiarato: la cultura non può mai essere considerata un bene superfluo e la società deve essere consapevole che ogni prezzo pagato per la conoscenza porterà buoni frutti. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E parte questa sera da Brescia la Mille Miglia, la tradizionale gara di auto d'epoca, stamattina l'altrettanto tradizionale punzonatura in Piazza Vittoria, e noi ci colleghiamo con Aldo Bonomi, presidente dell'ACI di Brescia, titolare del marchio Mille Miglia. Buongiorno Bonomi. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, la Mille Miglia, definita da Enzo Ferrari la corsa più bella del mondo per le auto, una curiosità, l'edizione 2011, anche un mezzo degli anni 50 dei Vigili del Fuoco e poi numerosissime le Ferrari. Direi che, essendo stata detto ancora tanti anni fa la corsa più bella del mondo, oggi lo è ancora di più, perché c'è un entusiasmo intorno a questa gara che è molto molto particolare. Le più belle auto d'epoca che ci sono in circolazione partecipano alla Mille Miglia. Credo che questo sia il succo fondamentale di questa Mille Miglia. E poi c'è da tenere d'occhio per i cacciatori di VIP la BMW di Mr. Bean e altri personaggi. Chi c'è quest'anno? Direi che i personaggi più importanti, come è stato detto, è Mr. Bean, ma io direi che i personaggi sono tutti i partecipanti, perché questa carovana che va lungo tutta, per 1600 km tutta la strada d'Italia, partecipa con tutta la popolazione che sarà, e saranno migliaia di persone che accompagneranno questa grande carovana per tutta l'Italia. Quindi lo spettacolo è garantito, ma soprattutto sono gli spettatori, i VIP di tutta questa di questa bellissima gara. Grazie ad Aldo Bonomi. Allora, in bocca al lupo per questa nuova edizione delle Mille Miglia, e invece un saluto da Maria Piera Ceci. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.